Rockway, l'onda del rock. ...22:40 minuti in questo istante, ben trovati su Blu Radio Veneto, oggi lunedì 11 giugno 2012, appuntamento con Rock Wave come ogni sera dalle 22:30 alle 24 sulle nostre frequenze. Chi vi parla, Sergio Bortolami, dall'altra parte del vetro Maurizio, anche questa sera con un ospite, Davide Vettori. Maurizio, a te la presentazione. Ai nostri ascoltatori, sì, stasera abbiamo un ospite, abbiamo Davide Vettori, abbiamo un ospite perché di solito il lunedì c'è Stefano, ma come abbiamo detto prima con Fabrizio, Stefano è andato a vedere il concerto di Springsteen e ci ha dato l'occasione per sentire fare un altro live, e i live fanno sempre bene alla salute, vero Davide? Esatto. Come stai? Bene? Buonasera a tutti, sì, sto bene, dai. Sì, Davide Vettori è un musicista di Treviso che ha cominciato a suonare, a divertirsi, a creare con un gruppo, poi lentamente, progressivamente le cose si sono sviluppate e ha cominciato una carriera da solista praticamente. Io voglio capire... Storia già sentita altre volte. Esattamente. Poi, sì. Voglio capire come è nato l'idea di fare da solista devi parlarci anche dell'esperienza con la band che hai avuto un po' di anni fa. Beh, diciamo che è partito al contrario, nel senso che io ero partito da solo e poi è venuta la band. Perfetto. E quindi cioè, è andato un po'... al contrario rispetto a come vanno di solito le cose. Abbiamo avuto questa esperienza con la band che... Come si chiamava la band? You Wrong. Hai suonato con... Hai calcato il palco anche con gente di un certo livello. Sì, dai, abbiamo fatto delle belle date anche in apertura, per esempio a Fu Manchu. Avevamo suonato anche con Zen Circus, anche con i Planet Funk. Insomma, cioè, abbiamo fatto... Aveva un po' di movimento. Sì, un anno e mezzo, dai, è abbastanza interessante. Però appunto da lì sentivo l'esigenza di comunque comunicare in una maniera più diretta, perché quello era un progetto in inglese e girando soprattutto nei nostri territori vedevo che la musica veniva recepita, però restava in disparte qualcosa. Quindi io, che diciamo non è che sono nato come scrittore, però comunque ho sempre avuto questo approccio allo scrivere, o se vogliamo dirla raccontare, o almeno provare a raccontare le cose, sentivo che mi mancava questa parte. E da lì ho provato a fare prima una canzone in italiano, che era appunto Personal Computer, che è stata la prima cosa uscita, e poi pian pianino diciamo che ci ho preso gusto e hai cominciato a sviluppare un disco praticamente, un tuo album, un tuo progetto che è uscito da poco, fresco fa, fresco, fine maggio, 21 quindi, maggio, esattamente un mese fa circa, esatto. Quindi è prodotto da un musicista che è venuto qua a trovarci, esatto, che la vita ci porta sempre nello stesso posto, e anche Tommaso Mantelli appunto, che capita Mantel, che salutiamo, ti ricordi Sergio? Me lo ricordo, c'ero io, mi sa, è appunto c'eri te che facevi la conduzione assieme a me del programma all'epoca, e che siamo diciamo amici di vecchia data, e da lì è partita questa collaborazione, quindi diciamo che è un disco fatto a quattro mani. Che cosa ha avuto di produzione, cosa ti ha dato il Captain Mantel, cioè che praticamente il loro genere è leggermente diverso dal tuo, mirano a visioni un po' spaziali, possiamo esatto. Dire così. Beh, diciamo, lui forse ci ha messo appunto lo spazio, nel senso che l'approccio mio è appunto molto più terrestre e forse anche molto più crudo, perché anche come avevo buttato giù il disco all'inizio era prevalentemente basato sui testi e sul groove di batteria e sui sintetizzatori pesanti. Quindi un'elettronica molto tosta. Sì, sì, esatto, sì, era abbastanza anche scarna e dritta. E lui, diciamo, lui mi dice sempre... Ti ha colorato un pochettino. Esatto, quando ne parliamo lui dice sempre: tu ci hai messo il crudo, io ci ho messo la poesia. Ecco, vedi. Quando ne parliamo insieme. Un connubio ottimale, esatto. Sì, infatti mi sono trovato benissimo in questo lavoro. Lui magari un po' meno. Sì, ma se lui ha accettato di produrti vuol dire che ha fiducia in te, assolutamente. Sì, esatto. Poi ha pagato anche tutti i prezzi di avere a che fare con me. Benissimo. E il disco tuo ha un titolo un po' particolare che ricorda Visione Cosmetica, Sergio, lui sicuramente ritorna in mente anche a lui, Alberto Camerini, Cosmici Cosmetici di alcuni anni fa, di molti anni fa, non c'entra niente, però qualcosa di Camerini nel modo di ricercare le cose, di amalgamare. Tu mi dicevi a microfono spento, qualcuno ti ha paragonato a un musicista molto importante, molto indie, molto fuori da tutti i circuiti, che è Fausto Rossi. Rossi aveva la capacità di creare, di non creare, su un tema abbastanza semplice, lo sradicava, lo ampliava fino a diventare un tema assolutamente incomprensibile a volte. Era un musicista molto avanti per l'epoca. No, infatti io sono andato a scoprirmelo perché appunto dopo un concerto è arrivato un ragazzo, che aveva anche il doppio dei miei anni probabilmente. E che conosceva Fausto Rossi. Io ovviamente non avevo idea di chi fosse, essendo venuto magari qui 10-20 anni dopo. È giovanissimo, Davide, rispetto a me, molto giovane, molto giovane. anche rispetto forse a anche più di me anche rispetto a Sergio. E niente, da lì mi è venuto la curiosità di andarmelo a cercare. Infatti sono rimasto abbastanza stupito, cioè guardando soprattutto gli anni in cui erano state fatte determinate cose. E era molto avanti, molto avanti rispetto rispetto a tante cose di adesso. Certo, per quello è un po' rimasto di nicchia, non è stato capito come doveva essere capito. Come tutti i grandi che dicono. Ma anche John Lennon, per fare un paragone assurdo, ho ascoltato qualcosa dei suoi dischi solisti, magari chiaro, non i brani, non quelli più famosi, esatto, non quelli, e ho anche Battisti in certi B-side, rimani di stucco perché non avresti mai immaginato che personaggi del genere in verità nel cuore avessero quello, perché poi se una persona fa un disco così di nicchia vuol dire che lo fa perché vuole farlo lui. È una continua ricerca, cioè tu hai citato Battisti era proprio usuale a ricercare giustamente nei lati B, cercava di sperimentare e spesso anche, volentieri. Anche nelle canzoni più famose, certe cose, certi intermezzi musicali, certi suoni erano sicuramente meno convenzionali di tanti altri cantautori dell'epoca, insomma. Certo. Cantautore. Era molto avanti, sì. Lo stesso Lucio, su certe cose. Beh, adesso siamo molto avanti nel senso positivo, quindi sentiamo qualcosa del disco tuo che è appena uscito, Visione Cosmetica, così ci facciamo un'idea del sound che vuoi dare agli ascoltatori. Ok. Maurizio, hai scelto la traccia numero 5, che è quella che dà il titolo all'album, quindi Visione Cosmetica. Rockway, onda del rock. Radio Veneto. Rockway, l'onda del rock. Siamo in compagnia di Davide Vettori questa sera all'interno di Rock Wave. Stiamo ascoltando, stiamo conoscendo sia lui sia la sua, il suo ultimo lavoro, Visione Cosmetica. Maurizio. Sì, tu hai, ho letto nelle recensioni, hai dato una spiegazione anche di questo titolo, Visione Cosmetica. Innanzitutto dammi la spiegazione del titolo e poi spieghiamo agli ascoltatori anche l'insieme musicale, che non è solo elettronica, è quello importante. Dobbiamo sviscerare, devo capire assolutamente dove proviene il tuo input. Beh, diciamo che a parte che il nome è legato comunque a una cosa affettiva che non stiamo qua a citare, no, perché è sempre legato a Tommaso Mantelli e comunque ricordi di infanzia, mettiamola così. Mettiamo così. Poi ho voluto dare questo nome perché cioè, all'inizio, quando man mano che scrivevo i pezzi, l'idea che mi nasceva in cuore era quella di dire vorrei cercare di dare una specie di appunto carrellata, appunto una visione vista dall'alto di alcuni aspetti che magari sento io o che sento distintivi di questo tempo, di quello che magari viviamo quotidianamente o di quello che magari delle singole persone con cui ti trovi a interfacciarti ti portano davanti, magari ti metti a parlare di alcuni argomenti o piuttosto che di altri. Quindi la mia idea era appunto di dare una visione vista dall'alto e cosmetica che cosmetica da cosmo, possiamo dire, partiamo esatto. Da cosmo, cioè da mondo, da universo, esatto, dire perché c'è sia il lato estetico e quindi possiamo mettere la cosmetica sotto quel punto di vista lì, però appunto cosmetica che ho studiato ma poco, e questo se lo ricorda il mio professore di greco però appunto salutiamo il tuo professore di greco, esatto, salutiamo il caro Bruno che vorrei anche salutarlo di persona prima o dopo. Bene. E appunto il discorso di cosmo, cioè cercare di prendere un punto di vista globale in cui c'è tutto, perché alla fine ogni persona è comunque un cosmo, un microcosmo, quindi hai veramente di tutto, sia dentro che fuori, e interfacciandoti con altre persone, cioè crei praticamente quello che è il cosmo praticamente. Poi hai detto degli input hai dato, per esempio una visione cosmetica è la vita ripiegata su se stessa, e a proposito di computer, visto che c'è un singolo dedicato al computer, chiusa dentro ad un computer come unico mezzo di scambio e comunicazione interpersonale. Al di là di questo, la vita ripiegata su se stessa, perché il computer deve essere l'unico mezzo di scambio? Perché è più facile. È più facile, ecco. È chiaro. Cioè, anni fa mi veniva più facile magari nascondermi dietro alle lettere o comunque cioè, non riuscire ad avere un dialogo persona con persona, e magari mi nascondevo dietro a fogli contro fogli, e quindi almeno io avevo quel modo lì. E mi rendo conto che tuttora comunque mi è difficile magari riuscire ad affrontare un discorso pesante o magari impegnativo con determinate persone. E mi rendo conto anche magari guardando a delle persone che ho vicino che comunque è la scelta più breve, la scelta più facile, addirittura sta cambiando anche comunque la lunghezza dei dialoghi, nel senso che se pensiamo anche solo a Twitter o agli SMS, lì sei bloccato nei 160 caratteri e io personalmente non li sopporto, perché tutte le volte c'è, cioè, mi trovo a dover è vero. Stringere, sì. Sarà che sono io che sono logorroico, sì. E quindi è un problema mio. Siamo in due. Con sì, certe persone sì, anch'io sì mi allargo parecchio e a volte mi rendo conto che sì. C'è qualcosa che, cioè, magari c'è qualcosa che non va, non è detto, però, cioè, penso più che altro a coloro che crescono, magari quelli che nascono esattamente adesso o che hanno 10 anni adesso, che crescono con questa modalità, ridurranno sicuramente i dizionari, ridurranno i libri, ridurranno tutto quanto. Anche la grammatica. Esatto, ma quello cioè, lo si vede già. Sì, sì, sì, sì. Non, mentre noi non tagliamo niente, quindi dobbiamo far sentire il primo pezzo dal vivo. Tutto vero, per intero. Dante? Tutto per intero, qui non si taglia assolutamente nulla. Beh, allora abbiamo parlato di Personal Computer. Che è il tuo singolo praticamente, esatto. Il singolo dell'album, quello che cerca di lanciare l'album, il brano che può entrare subito in mente, in testa. Mettiamola così. E mettiamola così. Tutto dal vivo, adesso si prepara Davide nella sua console, possiamo dire così? Esatto. Sicuramente. Ecco, nella sua console. Eccoci qua. vedi in un inganno senza mani e piedi. E se mi vedi, che cosa posso fare di un profilo personale volto a chiudere e naufragare dentro al mio personal computer, dentro al mio personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer. Credi in una pagina da mostrare, esistenza virtuale, per poi comunicare quel che mangi e bevi senza mai toccare. E dimmi quando ancora resti in giro, quando aggiorni il tuo profilo. E ci vediamo, ma non sai cosa fare, con nuove foto da mostrare, una canzone da sentire, la tua pagina da cambiare. Dentro al tuo personal computer, dentro al tuo personal computer, dentro al tuo personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer, personal computer. Ok, abbiamo sentito il singolo Personal Computer. Davide, questo proviene da un tuo progetto precedente però? A dirla tutta sì. A dirla tutta sì, spieghiamolo questo progetto precedente. Beh, diciamo che la targhetta era Human Nature. Esattamente, che è una tua, un tuo viaggio, possiamo dire così. Esatto, mettiamola così, era la mia mascherina. La tua mascherina. Perché appunto tutti i lavori precedenti erano fatti in inglese, quindi avevano questo nome, e Personal Computer come singolo unito a vari remix che avevano fatto vari amici era uscito come appunto Human Nature, in attesa di fare questo disco. Poi mano a mano che questo disco nasceva e cresceva mi rendevo conto che Human Nature era sorpassato, era un altro stadio, esatto. Un'altra fase. Era legato probabilmente ad altra maniera d'approccio. E sentivo, poi parlandone appunto, sempre tornando a citare Tommaso che è un punto di riferimento non da poco per sì te. Diciamo che siamo andati avanti mesi e mesi, cioè comunque a condividere tutto quanto sotto questo aspetto. E quindi il disco cresceva insieme, non solo sotto il punto di vista della produzione, ma cresceva anche appunto con le idee. Cresceva nel senso che magari io facevo delle bozze di grafiche, di copertine, gliele facevo vedere, e quindi è stata una bella collaborazione. E quindi anche lui mi aveva lanciato questo sassetto dicendomi: ma alla fine stai facendo un disco in italiano, che senso ha farlo uscire come Human Nature? Ho capito. quindi ti ha indirizzato, ha detto tu hai deciso di lasciare l'inglese e portare un progetto in italiano, perché continui a chiamarlo in inglese, giustamente. Esatto, quindi, mi ha detto paga i prezzi delle tue scelte. E quindi ha tagliato, avete tagliato questo discorso qua e avete fatto un disco in italiano. Esatto, e da lì appunto ho deciso, cioè non avevo più voglia di nascondermi, è un po' è come uscire nudo, uscire con il semplice nome, però sentivo, cioè ci ho messo un po' prima di decidere, però dopo un po' mi era sembrato quasi inevitabile fare questa scelta. Più che altro per il genere di musica che fai, il tuo nome e cognome ovviamente in italiano stona un pochino. Suona... Gruppi che fanno musica simile alla tua hanno nomi stellari, cose... Esatto, dici io mi presento con la mia faccia, con il mio nome, io so suonare così. Esatto, poi diciamo che l'idea è anche quella, essendo che porto avanti sia il filone della musica, sia mi piace comunque sperimentare anche in altri ambienti, quindi sia dal punto di vista di grafico, illustratore. Tu sei un grafico, dobbiamo sottolineare, ti interessa di grafica. Pure quello, il primo video che sta uscendo in questi giorni, che è Di morire a metà, è un video di animazione che hai fatto te. Che anche questo l'ho fatto nascere e crescere, un mio figliolo. E quindi ho detto l'unico sistema è quello, cioè se scrivessi un libro ci metterei il mio nome, perché se faccio un disco non ci metto il mio nome. Ma che difficoltà hai avuto ad abbandonare l'inglese e a cantare in italiano, anche dal punto di vista della metrica o no? Beh, da un lato sì, perché l'inglese comunque, cioè, viene più facile e qualsiasi parola che ci metti comunque suona, ha un suono e suona bene. In italiano è sempre il discorso di essere nudo, mi sono accorto anche andando fuori a fare i concerti che non ti puoi nascondere, non puoi farfugliare, non puoi sbagliare, perché quello che dici l'hai detto. Sì, perché la gente ascolta immediatamente, capisce subito. Esatto. Sì. ma facendo proprio una critica a me stesso quando facevo le cose in inglese, cioè mi veniva tutto molto più facile, era tranquillo, non ti impegnavi, e quindi è quasi una prova del fuoco, ma ogni concerto è una prova del fuoco. E il bello comunque è che mi capita spesso che magari è finito un live o viene lì una persona, magari ti scrive il giorno dopo, che magari è rimasta colpita da quel testo, che magari l'hai aiutata a riflettere su un punto, e mi basta una persona così su 100 e direi che il lavoro, per quel che piccolo che mi riguarda, direi che ha funzionato. E la cadenza ipnotica, che è una caratteristica della musica elettronica, però in questo caso la tua cadenza ipnotica è una ipnotica anche a volte abbastanza dura, violenta nel senso positivo del termine, che poi marziale, sì, giustamente ha detto Sergio, poi si dipana, si affievolisce, ma poi riprende. Non mi piacciono le cose troppo leggere. Sì. Anzi, dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, che lui proviene da ascolti zeppeliani, quindi insomma, i Led Zeppelin, come possiamo chiamare, Plente, Page, tutto quello che volete, o Bonzo, soprattutto Bonzo. Esatto, soprattutto lui... Bonzo. Lui ci dava. Lui ci dava alla grande. Infatti, cioè, io, vabbè, non ho spesso un batterista, anzi, in questo progetto ce n'è stato uno per fare un paio di cose, ogni tanto magari facendo dei live anche in tre, così lo rivelo. Però appunto, secondo me, guardando i batteristi, secondo me un batterista deve avere il tiro della batteria dei Led Zeppelin, perché quella era una batteria suonata e vissuta. È molto, sì, decisamente vissuta, che Bonzo viveva un simbiosi totale con la batteria, secondo me c'è poco da fare. Quindi il rullato che fa con Stairway to Heaven è un classico, Black Dog è un classico dei classici. Esatto, sì. Esatto. Black Dog proprio ha spaccato tutto, spaccava tutto. E anche, secondo me, anche nell'elettronica, sarà che appunto vengo dal mondo del rock and roll, per esempio, secondo me, i sintetizzatori dell'elettronica devono avere il tiro che ha una chitarra. E la batteria, comunque, per esempio, tutte le batterie elettroniche, quelle nate negli anni 80, io personalmente non le sopporto, perché erano tutte comunque ovattate, almeno il genere, quello pop, che andava per la maggiore. E quindi, cioè, sentivi queste canzoni che magari a mio puro gusto potevano avere un buon feeling, però senti che manca qualcosa. Gli stessi Depeche Mode, secondo me, hanno fatto delle bellissime canzoni, però c'è un sostegno sotto che ci manca, resta tutto lì a metà tra il bianco e il nero. E almeno io ho bisogno di... cose che battono. Ho capito. Deve sentirsi bene il marchio, insomma. Esatto. E allora io ricordo sempre, quando si parla di elettronica, ricordo sempre Ralph e Florian. Quindi era un gruppo americano, poi sono diventati quelli di Autobahn, cioè adesso mi sfugge il gruppo che si è Kraftwerk. Esatto, Ralph e Florian erano la matrice iniziale dei Kraftwerk, erano, e suonavano la batteria elettronica. Sì, però dopo sei d'accordo in quella visione della batteria elettronica di Kraftwerk, o li consideri un po' demosciati come i Depeche Mode? Oddio, loro li ascolto a livello di concetto, secondo me demosciati nel senso positivo, cioè sì. Demosciati nel senso non cattivi come li vorresti te. Oddio, gli manca anche a loro della cattiveria, perché mi sto riascoltando i dischi adesso, cioè appunto premetto il fatto che io non ho ascoltato poco di elettronica prima di trovarmi dentro l'elettronica, e hanno delle cose molto buone. Però anche lì non so se manchi qualcosa di moderno, perché magari chiaramente con gli strumenti moderni puoi dare più attacco alle cose, e lì magari in quello che facevano loro già l'innovazione di avere appunto una batteria elettronica era già innovazione in quanto tale, quindi bastava così. C'è qualcosa nei pezzi che è un tiro che mi piace, però c'è tanto che mi manca, ma gli stessi Suicide sono sempre lì. E sembra sempre che debba crescere qualcosa, però in verità non succede mai niente. E sparando l'elettronica, i giochetti che faceva Frippeino, cosa ne pensi? Beh, loro sì. Il Fripp Tonic, il famoso giocato di Robert Fripp, Ino giocava, si divertiva, spaziava. Lui era un genio. Quelli alzo le mani e non posso dire nulla. Quelli li possiamo accettare, allora. Quelli li accettiamo. Sono uno difficile. Sì. Beh, Brian Eno ha fatto un po' di tutto. Ha creato certi ambienti, l'ambient, musica ambient l'ha creata. Sì. Esatto. Lui, c'è poco da fare. Sì, sì, esatto, dobbiamo assolutamente inchinarsi a Brian Eno, genio assoluto. Ok, adesso ci inchiniamo ancora alla musica di Davide, vediamo un altro pezzo, cosa dici Sergio? Maurizio, mi segnali qui la traccia numero 8, preservo il tiro. Ok, eccola qui. Il preservativo è un metodo conservativo che mi permette di guardare indietro, toccare quello che non ho. È un sogno recidivo, mi sento vivo. C'è ancora una ragione certa per stare con le mani in tasca. Scelgo di non scegliere niente, di restare a guardare che questa vita mi passa e va. Scelto di tirarmene fuori, di lavarmi le mani, ogni decisione fatalità. Mediocre io. Nascondo il braccio, non è nuovo, che ho solo vocazione forte di starmene sulla mia porta, sicuro che vivo, trattengo il fiato e non respiro, non tiro il sasso in ogni cosa, faccio che l'acqua non si muova. Ho scelto di non scegliere niente, di restare a guardare questa vita che passa e va. Ho scelto di tirarmene fuori, di lavarmi le mani, ogni decisione fatalità. Ciò che non ho voglia di affrontare e non guardare. lineare con una forma di peccato capitale, perché decide in ogni istante di non essere né più bianco né nero, né carne né pesce ma poltiglia, né bianca né nera. Rock. 23:10 minuti, siamo ancora in compagnia di Davide Vettori su Blu Radio Veneto in Rock Wave del lunedì. Maurizio, abbiamo sentito la traccia numero 8, Preservo il tiro. Ecco, Preservo il tiro, adesso me la spieghi un secondo. Vai. Perché può essere identificata nel senso, in una certa maniera, Preservo il tiro, cioè nel senso che sì, posso andare avanti, però su certe cose le mantengo. Diciamo che è un pezzo un po' ironico, così se vogliamo dirla. Nel senso che comunque è un pezzo dove, vabbè, c'è una citazione: ho scelto di non scegliere niente, di lavarmi le mani. Ed è da... appunto parla di un sacco di, magari, di situazioni che penso che chiunque si sia trovato davanti. Quindi nel momento in cui devi o vorresti comunque fare una scelta di qualsiasi tipo, ma comunque una scelta radicale in cui ti ci giochi l'anima, il cuore, e tu decidi che comunque resti fermo nonostante tutto, non tiri il sasso al posto, però vorresti tirare il sasso. Esatto, è chiaro, è un po' una provocazione, nel senso che, cioè, chiaramente come tutti abbiamo fatto delle scelte, alcune, e alcune magari non le abbiamo fatte, e mi rendo conto nel mio piccolo mondo vitale che le scelte, quelle che sono state fatte, magari quelle più difficili, che risultano più dure, la montagna più alta da scalare, comunque quella dove ti ci metti tutto il sangue, però quando arrivi ad aver fatto questa scelta ti senti comunque libero, e nonostante tutto lo sforzo, tutto il dolore, comunque tutto questo ti paga, e senti che se una cosa ti nasce dal cuore come veritiera può anche non essere sbagliata, o anche se è sbagliata, comunque se l'hai fatta in coscienza paghi il prezzo di aver fatto questa scelta a testa alta, mentre invece rimanere lì nell'acqua stagnante comunque non cambi mai niente e da lì non ti muovi, e secondo me a lungo andare questa cosa ti fa marcire. Ecco, tu hai detto rimanere lì nell'acqua stagnante, musicalmente non rimani mica sull'acqua stagnante, però anche questo pezzo era molto velocizzato, volutamente molto velocizzato, leggermente di più rispetto all'altro, secondo me. Oddio, no, stranamente questo qui a livello di puri e semplici BPM è un pezzo molto lento nell'economia del disco. Invece io l'ho sentito in modo diverso, l'ho interpretato in modo diverso, forse. Sì, questo pezzo me lo sono giocato in una certa maniera, nel senso che l'ho fatto stranamente con BPM. Spiega gli battiti per minuto. Ecco, esatto, spiega qui che non sono dentro al discorso dell'elettronica, esatto. Non soltanto ma è nella musica normale, nella musica un generale. Metronomo appunto ha i battiti per minuto. Il metronomo cosa, che funzione ha nei tuoi pezzi il metronomo? Diciamo che il metronomo, potrei dire che per assurdo i miei pezzi nascono dal metronomo, perché quando, cioè almeno tutto, comunque gran parte del disco è nato comunque da un battito, ma nasce in cuore un battito e mi viene da cantarci sopra determinate cose. Poi da quello vai a costruire la batteria che va con quel battito lì, vai a costruire il sintetizzatore che fa la linea sotto, e quindi diciamo che tutto nasce dal battito e dal testo. È una cosa che va, per assurdo potrebbe nasce prima il testo poi, o prima il battito? Già, Mi spiego, nasce prima il testo o prima la musica o viceversa? Di solito nasce prima il testo e se possiamo dirla così, nasce il testo con già un battito dentro, cioè già un qualcosa di musicale dentro. Esatto. No, solo il puro ritmo. Solo il ritmo e basta. Esatto. Poi pian pianino ci si comincia a lavorare e si fa il processo contrario, cioè almeno lavorando nelle band di solito suoni, da lì nasce la canzone e poi ci canti sopra. Invece almeno questo lavoro qua mi è nato completamente, anzi ho anche voluto farlo completamente al contrario, perché ho spinto di più sull'esigenza comunicativa. Diciamo che l'elettronica, non dico che sia il sostegno, però sì. E dal vivo come lo presenti un pezzo simile, al di là della console che hai portato stasera? Questa è la console che usi anche nei tuoi concerti? Il setup dal vivo ultimamente è anche variabile, nel senso che quello che uso solitamente è quello che avete davanti. Spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori che Allora, nello specifico ci sono, c'è un mixer, giustamente un personal computer, e un paio di sintetizzatori, un effetto vocale e un altro filtro. Sì, una cosina praticamente, una cosina veloce. Esatto. Così una veloce, però ha una certa sonorità. Chiaramente dal vivo è leggermente più scheletrico, possiamo dire questo, esatto, rispetto a quello del disco. Il disco l'hai un po' l'hai ampliato, cioè il discorso anche del missaggio, della costruzione dei pezzi, della ricerca di pezzi. Qui chiaramente, ragazzi, siamo dal vivo e Davide deve fare necessità virtù, nel senso che deve suonare dal vivo. Esatto. Non c'ha tanti altri aggeggi nel senso positivo. Oddio, ce li hai lo stesso. Quando ho cominciato all'inizio avevo molti più aggeggi. Ultimamente aggeggi non nel senso dispregiativo del termine. No, le chiamo anch'io aggeggi. Per aumentare il volume. Accrocchi. Ecco, esattamente. Così, bellissimo. Mi piacciono gli accrocchi. appunto, mano a mano, andando avanti col tempo, ho cominciato a togliere delle cose e tenere qualcosa di minimale. Semplicità sia per un puro discorso tecnico, sia perché comunque almeno coloro che hanno visto i live fino ad adesso dicono che sia molto fisico, quindi ti muovi notevolmente sul palco. Questo facciamolo dire a chi l'ha visto, però diciamo che c'è una parte molto c'è umana, una tendenza umana molto spiccata. Poi mi piace anche comunque, se c'è un certo pubblico e le condizioni lo permettono, mi piace anche comunque un minimo interagire, perché comunque fa parte, lo considero della comunicazione, nel senso che comunque tirare non voglio che sia un io do a te, tu prendi e basta. Quindi diciamo che questo è un lato. L'altro lato è che comunque mi è capitato di fare degli esperimenti suonando dal vivo, sia in questa situazione, sia appunto con Tommaso che suonava le chitarre e Mauro che suonava le batterie elettroniche. Quindi abbiamo creato una dinamica diversa, quindi in un concerto puoi avere più punti di vista. Una dinamica diversa che può essere la tendenza di qualche altra cosa che avresti nel cassetto, che vorresti fare, oppure è una cosa così episodica? No, diciamo che questa cosa qui mi è piaciuta farla e vorrei comunque continuarla. Poi ultimamente ho provato a spogliarmi ancora di più e quindi provare a riarrangiare i brani che avevi già fatto, questi qua del disco, in versione magari chitarra, con un altro amico che si chiama Mauro, anche lui Mauro da Re, citiamolo. Quindi una continua jam session la vostra, dire. Sì, diciamo che per assurdo è il disco di una one man band, però mi piace andare a punzecchiare gli amici e loro comunque vedo che ci si buttano con il cuore, perché magari i brani gli piacciono e ci si buttano dentro. Abbiamo fatto questo esperimento con due chitarre e batteria elettronica, che io lo considero la mia versione acustica, insomma è già tanto rispetto allo standard chiaramente. Quindi visione cosmetica è un inizio di altri monti che vorresti creare, oppure no? Col tempo sì, anche perché mi sono trovato sono molto distante, almeno in questo disco, dai classici De André piuttosto che Battisti, che abbiamo citato prima, Battiato, Dalla, così. Battiato era molto sperimentatore, Battiato all'inizio, esatto, famosi dischi come Messie le Gladiateur e altre cose molto particolari. Messie le Gladiateur, ricordiamo che aveva una facciata di un suono e una facciata di un altro, praticamente aveva un suono, proprio un suono lungo, esatto, non faceva l'altro. Io ricordo tanti anni fa, io l'ho visto, sì, si parla di 25 anni fa, anche di più, era qui al Teatro Più X, qui a Padova, e lui aveva un organetto, aveva un tappeto rosso, era seduto, era proprio inginocchiato, una cosa simile, e suonava con l'organetto, suonava solo quello, chiaramente. Era un suono proprio minimale al 100%. Ma lo stesso John Cage, tornando ancora più indietro. Tornando ancora più indietro, un genio assoluto. Dobbiamo sottolineare che Battiato ha vinto il premio Stockhausen, quindi insomma. Sì, esatto, quindi. Non dobbiamo certo andarlo a vestire. Quindi minimale in un certo senso, vorresti continuare a fare diventare più scheletrico ancora il suono. Sì, direi di sì. Cioè, magari il suono, capire come gestirlo, però puntare ancora di più sulla la parte comunicativa parlata. L'interscambio col pubblico. Esatto, praticamente. Magari per assurdo ci è nato in mente con degli amici più volte, non ci abbiamo ancora provato, però a inserire magari del teatro in qualsiasi maniera, dei video ce li abbiamo già messi, quindi anche perché credo che siamo nel 2012, il concerto bello che è fatto come lo facevano 40 anni fa, secondo me ormai non dico che non ha più senso, però ha bisogno di stimoli. Cioè, nel senso che io dico a me stesso che se dovessi andare a un concerto di 2 ore, 3 ore, vorrei un qualcosa di più ampio possibile. Ho capito. Quindi da quello parto per dire, vorrei anch'io portare in giro qualcosa di più ampio possibile. Bene, bene. Adesso sentiamo qualcos'altro. Esattamente, più ampio possibile, suoni ancora Davide. Adesso allora facciamo causa d'effetto. Causa d'effetto, sì. Parlando del mondo alla rovescia. È una traccia, una ghost track, cioè una traccia in più deve essere questo qua. Tu l'hai definita a te una traccia particolare. Causa d'effetto. Sì. Causa d'effetto, intanto ci sono delle chitarre che penso che sono pochissime le chitarre in questo disco. E quindi è già particolare in quel senso. Esatto, queste sono campionate, anche queste da un amico che l'ho, tra virgolette, obbligato a fare le chitarre esattamente così, anche se... l'ha obbligato. Sì, anche perché lui non voleva in quanto chitarrista, quindi voleva spaziare, ma io sono un testa dura, quindi quando mi fisso in una cosa è dura spostarmi. Ed è forse è anche uno dei pezzi proprio più duri, più crudi del disco, se vogliamo metterla così. Sì, qualcuno l'ha giudicato una cosa in più, cioè un regalo che fai nel discorso dell'album, causa d'effetto. Addirittura un regalo, cioè una cosa un po' particolare, anche se non è proprio particolare, fa parte del progetto, però il discorso delle chitarre può dare il senso delle cose un po' diverse. Esatto. Ok. Ce ne andiamo a sentire. Benissimo. Rockway, l'onda del rock. Costringere un effetto a diventare causa. Posso anche dire che è lo stesso rimanere conservatore. Qui il vuoto a perdere è virtù. Io non mi so più spiegare che cosa è bene, che cosa è male. Posso costringere un effetto a diventarne causa. Posso subire il mio processo vitale senza né vivere né modificare. Posso anche vivere del bisogno e fare del bisogno la luce guida. La vita del consumo è vita attiva, dimentico anche il prezzo della saliva. Vivo in un mondo alla rovescia, dove sta in cima solo quello che striscia. Vivo in un mondo alla rovescia, dove il buon gusto è come un cane che piscia. Vivo in un mondo alla rovescia, dove il buon gusto è come un cane. costringere un effetto a diventare causa. Posso anche dire che è lo stesso. Io non mi so più spiegare che cosa è bene, che cosa è male. Vettori su Blu Radio Veneto, stiamo imparando a conoscerlo e a conoscere il suo lavoro che si intitola Visione Cosmetica. Maurizio, hai sentito come usava l'elettronica, sì, come visto. Fossero chitarre di storico? Sì. Non ha le chitarre, ma c'erano le chitarre. È vero, è vero. Sì, sì, no, eccezionale. No, girava, sì. Girava le manopole del synthesizer SH-32, sono un po' orbo, ho letto, ma... E si le utilizzava in questa maniera. E poi sì, è come fosse un nuovo Savonarola. Hai pestato duro in questo pezzo. Hai detto il mondo alla rovescia, cioè la visione del bene e del male. Poi parlavi anche dell'antica Grecia, dove c'era solo il bene, eccetera. Beh, dai, diciamo che mi sono tenuto anche relativamente fermo. In questa stanzetta, ho detto non facciamo troppi danni per questa volta. No, però anche dal punto di vista musicale, hai proprio in. Proprio dato, ripetendo il discorso di prima, hai proprio ritornato al schema scheletrico proprio del pezzo, proprio l'hai ridotto al minimi termini. Sì, questo è uno dei pezzi che diciamo proprio più scheletro rispetto a tutto il disco. E beh, diciamo che a livello di appunto di idea di scheletro, che citavi l'antica Grecia. Mm. Sempre ricitando il caro vecchio Bruno, esatto, tuo professore, che sempre aleggia anche lui, è una di quelle persone che ti porti dietro, che ti ha dato degli insegnamenti giusti, esatto, allora. Ecco. E infatti mi ha abbastanza fatto legare a, cioè, adesso magari appunto parliamo di, piuttosto che di politica o di cultura o di qualsiasi altro ambiente, magari diciamo ma una volta si stava meglio, però io ero legato al fatto che nell'antica Grecia appunto già l'idea di democrazia o l'idea di un governo doveva essere per forza appunto fatto da delle persone positive e che dovevano fare il bene di tutti. Certo. Io nell'antica Grecia non ci sono stato, quindi non so se questo fosse stato il messaggio e poi in verità non è successo questo, però da lì, cioè non solo da lì, però appunto ti viene da dire che adesso di solito chi sta in cima in televisione piuttosto non è che... necessariamente migliore, ma no, come tu giustamente dici, il più scaltro e senza ripegno è il più furbo, esatto, il più furbo, quindi la meritocrazia, infatti sappiamo bene che in questo paese diciamo che funziona poco. Mm-hmm. Mettiamola così sono le 23 e 20 28, quasi 29, stiamo parlando sempre con Davide di questo suo progetto, e dobbiamo anche studiare una cosa, dobbiamo ringraziare il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che grazie a lui stasera sei qua. Lo ringrazio anch'io, non avendolo potuto conoscere di persona, ma magari ci sarà. Ha avuto una buona intuizione e ha detto, cioè, perché non facciamo suonare Davide lunedì? È stato così e Davide è venuto a suonare. Esatto. Una cosa molto positiva. A proposito di suonare, noi facciamo sempre delle domande inerenti a qualcuno, alle informazioni musicali, ai piaceri musicali. Cosa ti porteresti su un'isola deserta? Oddio, questa è una domanda difficile, tanto difficile. Facciamo tre dischi. Hai dischi? Ma anche cinque. Facciamo cinque, Sergio. Quattro. Allora, questo è difficile, dovevo prepararmela da ma casa. Ma appunto, però non ti ho fatto preparare. Beh. Allora, comunque, uno a caso dei Led Zeppelin, perché l'abbiamo detto. L'abbiamo agitato. Loro ci stanno. Ci metto dentro anche The Doors, perché comunque io sono nato da lì. Bene, interessante questo, Sergio. Hai citato i Doors. Quale dei Doors? Il primo, il secondo, il terzo? Io per assurdo ho cominciato da LA Woman, che era l'ultimo. Che era l'ultimo, sì. E mi porterei dietro o quello o Morrison Hotel. Come tipologia, però anche lì scegliere. Cosa ti ha dato Jim Morrison e Ray Manzarek, che era un grandissimo tastierista? Cosa ha dato uno come Ray Manzarek, che adesso è in tournée proprio fra qualche settimana qui in Italia, assieme all'altro? Dei Doors, Ray Manzer of Doors c'è scritto, e fa una tournée con l'altro esponente dei Doors. Cosa ti ha portato oltre a Jim Morrison, che è l'icona? Diciamo che io chiaramente, come tutti i ragazzini, sono partito appunto dall'icona, e diciamo che lui mi ha dato la poesia, se così vogliamo dirla, questo suo modo comunque libero di vivere sul palco, perché dietro le spalle aveva una band che comunque di tutto rispetto, straordinario. E lui a quel punto poteva permettersi di fare quello che voleva, certo. Appunto, e lì diciamo appunto ci sono delle cose che magari negli anni mi piacciono di meno, delle cose che mi piacciono di più, però appunto questo approccio libero di fare, di scrivere rispetto ai classici della sua epoca, nel senso che per esempio Jimi Hendrix piuttosto che ne so Janis Joplin, piuttosto che anche i Beatles, nessuno, o i Rolling Stones, o comunque tutti di quell'epoca, nessuno, visto che mi ha dato quella spinta lì, forse magari perché solo in lui mi sono addentrato a leggermi tutti i testi, tutto quello che aveva scritto. Quindi Morrison e quindi Doors. Esatto, è tutto partito da lì, da un viaggio a Parigi un sacco di anni fa. Bene, poi ancora? Altri dischi, oddio, qualcosa di De André, ma non saprei come specificare quale. Perché quello, il De André di, non so, di Non andare al cielo, De André di Creso del Bombarolo. Ecco, del Bombarolo, esattamente. Bombarolo, certo. Stranamente no, nel senso che mi piacciono i testi, ma quello di protesta, oppure? No, non troppo. Quello un po' più romantico. Esatto, quello romantico, decadente, preferisco quel De André lì. Poi anche lui, adesso ho un buco di memoria perché non mi ricordo che concept album aveva fatto lui, perché me l'aveva, quella dove c'è il cantico dei drogati per esempio, che tutti morimo a stento, esatto, è quello. Per esempio quell'album lì a me piace tantissimo, cioè è un po' lento, però sia a livello di sonorità, come proprio è stato lavorato anche in studio, e secondo me era d'avanguardia. E l'ultimo progetto con Fossati, Anime Salde, che ne pensi? Che era l'ultimo, Andrea, l'ultimissimo? L'ultimissimo là l'ho proprio saltato. Hai saltato di pari. Io amo particolarmente un disco di Andrea, non so se Sergio è d'accordo, è La Buona Novella, che io, secondo me è stato uno dei più grandi dischi che lui ha scritto, lui parla di Gesù, quindi un rivoluzionario assoluto, e secondo me ha fatto una cosa strepitosa, parlando di un tema molto difficile, ma il tema religioso, quindi ha fatto una cosa bellissima. Questa allora me la devo andare a riprendere. Sì, Buona Novella, ti consiglio vivamente, un disco insuperabile, ne ha fatti tanti insuperabili, tanti dischi bellissimi, ma La Buona Novella secondo me è un disco di grandissimo spessore. Ok. Poi, Lucio Dalla, e mi sa che il disco si chiama proprio Lucio Dalla. Perché io sono legatissimo alla Settima Luna, infatti mi piacerebbe come idea un domani provare una reinterpretazione di quel pezzo. Ecco, Dalla aveva questa caratteristica di sapere gestire anche dal punto di vista vocale al di là che lui aveva una certa preparazione, suonava lui era un musicista, bravissimo. Sopraffino, sempre impastato nel jazz e nello swing, però sapeva anche dal punto di vista vocale costruire assolutamente, e spesso volentieri i suoi vocalizzi non erano vocalizzi così per chiudere, non so, 10 tracce di un disco, erano dei vocalizzi volutamente fatti per dare una costruzione, un senso, una sperimentazione alle cose. Infatti quel disco lì a me, cioè appunto di Dalla, essendo, cioè adesso dovrei fare tutto un lavoro ritroso, quindi andare a prendere tutti i vinili di mio padre e... Beh, bravo papà che hai i vinili. No, infatti ce la giochiamo, perché poi dopo negli anni ho cominciato io, quindi lui adesso sta ancora continuando la collezione. Bene. Io la riprenderò più avanti. Sempre in vinile? Sì, sempre in vinile. Bravo, complimentissimo. Sì, facciamo i complimenti vivissimi noi di Rock Wave a tuo papà. Signor Vettori. Va bene. Sì, parlando di Lucio Dalla, un altro disco molto importante sono i dischi fatti con Roberto Roversi, sono Automobili. Automobili è un disco per Roberto Roversi, un poeta bolognese, che ha scritto i testi e Lucio ha praticamente musicato i testi di Roberto Roversi, e Automobili è un disco bellissimo secondo questo me. Per esempio devo lo conosco. Nuvolari, Nuvolari del 2000, meravigliosa. Il tema dell'automobile sviluppato da Roberto Roversi con le musiche di Lucio Dalla, Futura per esempio, un pezzo nato storico, tante altre cose che lui ha fatto tanti dischi. Qualcuno un po' meno interessante, qualcuno di più, però là è la vena creativa certamente. Infatti qualcuno parlava di, per esempio, di Battisti e dicevano che è impossibile che una persona che fa la stessa cosa per 30 anni sia sempre al top. Qualsiasi lavoro tu faccia, che faccia musica, che faccia film, che tu scriva un libro, che faccia scrivania in legno, è impossibile che tu abbia sempre il 100%. Ed è umanamente capibile, anzi secondo me ha più senso dal punto di vista umano cercare di spaziare in maniera tale da convogliare le energie in vari ambiti, in maniera tale che così, agendo in un sistema, ti ricarichi per la stanza successiva. Benissimo, facciamo una cosa, cosa dici Sergio? Visto che sono 23:36, suoniamo ancora dai Davide. Dal vivo, assolutamente buono, dal vivo. Buono, certo. Allora facciamo Morire a metà, che è il singolo con video che sta uscendo in questi giorni. Benissimo, ok. non è successo nulla. Una bottiglietta. Niente di grave, poteva andarci peggio. Sì, speriamo anche di no. Dammi il tempo di riscrivere una vita nuova fatta per me. Dammi il tempo di ricominciare, il tempo di cadere per poter risalire. Tu dammi il tempo per restarmene a guardare ora l'alba che sale. Dammi il tempo di telefonare, di correre giù al mare per potermi lavare. Voglio morire, morire, morire, morire, morire e morire a metà. E così sono sicuro di poter vivere bene quello che resta di me. Dammi il tempo per osservare, per annusare fuori, per respirare. Dammi il tempo per poterci incontrare, il tempo per agire che lo sappia sfruttare. Voglio morire, morire, morire, morire, morire e morire a metà. E così sono sicuro di poter vivere bene quello che resta di me. O forse il tempo c'è già. O forse il tempo c'è già. Dammi il tempo di riscrivere una vita nuova fatta per me. Dammi il tempo di ricominciare, il tempo di cadere per poter risalire. Dammi il tempo per osservare, per annusare fuori, per respirare. Dammi il tempo per poterci incontrare, il tempo per agire che lo sappia sfruttare. Voglio morire, morire, morire, morire, morire e morire a metà. Che così sono sicuro di poter vivere bene quello che resta di me. Voglio morire, morire, morire, morire, morire e morire a metà. Che così sono sicuro di poter vivere bene quello che resta di me. Voglio morire a metà. Voglio morire a metà. Morire, morire, morire, morire, morire, morire a metà. E così sono sicuro di poter scrivere bene quello che resta di me. Morire, morire, morire, morire, morire, morire a metà. Che così sono sicuro, che così sono sicuro di poter vivere bene quello che resta di me. L'ultima ventina di minuti insieme a Davide Vettori per conoscere la sua visione cosmetica, il suo lavoro che stiamo appunto imparando a sentire qui sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Maurizio. Abbiamo ascoltato Morire a metà. Tu hai scritto, hai detto una cosa molto bella, è la scusa con cui spesso ce ne laviamo le mani. Io ho captato tutte le tue dichiarazioni e hai detto questo, e hai detto una cosa giusta, perché è una scusa, sì. Beh, di solito sì, cioè nel senso che le giornate sono di 24 ore e là non ci piove. Chiaro. Però sì, capita ovviamente ed è umanamente plausibile che non ce la facciamo a fare tutte le azioni che vorremmo fare durante la giornata. Durante la giornata o anche durante proprio tutta la vita. Esatto, durante tutta la vita. Però spesso appunto probabilmente lo facciamo tutti di lavarci nelle mani, cioè no, ma questo non lo faccio perché non ho tempo, quell'altro non ho tempo, non dedichi appunto un minuto a un amico al quale serve, non dedichi 5 minuti magari alla tua famiglia, non dedichi 10 minuti al riposo quando serve. Questa è una critica che faccio a me stesso, ma è una critica totale per tutti, sì. Chiaramente la critica è una considerazione, è una considerazione critica. Anche perché io ho due travi per ogni occhio, quindi non posso permettermi di dire niente a nessuno, però insomma è una considerazione, così mi piace chiamarla considerazione. Sì. E dal punto di vista musicale, che considerazione c'è stata per fare un pezzo, per dare colorare, per costruire un pezzo su questo testo? Beh, cioè la prima appunto è l'orologio, perché tanto di questo disco lo chiamerei cinematografico, perché appunto oltre ai sintetizzatori e tutto il resto ci sono tanti suoni sia gestiti da me sia gestiti da Tommaso, e quindi l'orologio era la classica cosa più palese per dare il segno del tempo. Poi appunto anche nel video che ho fatto ho ripreso e enfatizzato, anzi tirato proprio allo stremo questo concetto dell'orologio. E poi per il resto dei suoni sì, c'è questo sintetizzatore abbastanza grosso che niente, che prosegue per tutto il pezzo, e quindi va a scandire comunque che è il ritmo della giornata di chiunque. Certo, sì, il ritmo della giornata di chiunque, il sintetizzatore scandisce, colpisce più. Esatto, colpisce. Colpisce, possiamo dire questo. Sì, perché sono appunto dei contrattempi e quindi colpisce, esatto. E tu, visto che questa tua visione è abbastanza potente dell'uso dell'elettronica, il colpire fa parte del progetto. Sì, esatto. Vabbè. Chiedo scusa per la mia voce, perché questa sera, insomma, appunto, la vita ha anche colpito me. T'ha colpito. M'ha colpito e quindi, insomma, non sono riuscito a colpire ancora di più. Quindi... Però se adesso in questo momento hai un piccolo handicap, nel senso della voce, leggera voce, non a livello che tu vorresti, ma dal vivo, che potenza hai con questo Morire a metà? Oddio, bisogna venirlo a sentire. Cosa enfatizzi musicalmente? Cioè, usi un sintetizzatore, usi dei suoni sempre più arrabbiati oppure no? Questo sì, questa è, cioè, diciamo che a livello di produzione è venuta comunque una canzone relativamente pop. Esattamente, fa parte delle canzoni pop, esatto. Secondo me. E quindi questo è stato a livello di produzione. Dal vivo, però qua in questo momento, come l'hai fatta qua, non era proprio pop pop, secondo me. Qui ho spinto di hai spinto molto decisamente, nonostante la piccola imperfezione vocale che tu hai detto, sì. Ma no, una cosa superabile al 100%. Però hai spinta molto, chiaramente. Cioè, è spinta di più sulla parte più cruda. Esattamente. Mentre invece questo brano l'abbiamo fatto anche appunto in versione con gli altri musicisti. E lì appunto prende un'altra dinamica, perché ci sono le chitarre, quindi puoi dargli altre dinamiche, quindi magari gli dai quella dolcezza che sennò io sarei solito togliere. Cioè, esatto. Tolgo a priori. Il pop non esiste su certe cose per te, o meglio esiste, però esiste tirato. Esatto, tirato. Ho la mia idea di pop. La tua idea di pop, bene. Oh, benissimo, allora sono le 23:44, stavolta possiamo sentire un pezzo da disco, cosa dici, Sergio? Ovviamente la traccia che hai scelto adesso, Maurizio, è La distrazione, appunto, di Davide Vettori, la sentiamo. Rockway, l'onda del rock. Rock. Siamo quasi in chiusura, Maurizio. Sì, abbiamo ancora qualche minuto, però parliamo, possiamo... Sì, parliamo un momento di questo pezzo che lo considero molto interessante, perché c'è un duetto, è la prima volta, c'è un... l'unica volta nel disco che c'è un duetto. Ma... sì, ci sono dei cori, ma questo è l'unico duetto femminile. Con una voce femminile. Adesso ne parliamo, l'idea del duetto e perché hai trovato questa ragazza praticamente che ti ha dato una mano, che ha sviluppato questa opera, questo concetto che tu volevi sviluppare, creare. Beh, diciamo che innanzitutto ripetiamo il pezzo, come il titolo del pezzo. La distrazione. Perfetto. E la ragazza in questione appunto è Ilenia Volpe, mentre invece la mano sui violini è quella di Nicola Manzan, che è uno di un gruppo molto indie, molto, molto importante. Tanto, adesso è Bologna Violenta. Bologna Violenta, esattamente. Violino pazzo, violino al di fuori di tutti gli schemi. Un violino violento. Un violino violento, esatto. Che anche lui, beh, lui è un amico di vecchia data, anche lui. Mentre invece Ilenia, diciamo che è nata, cioè, non dico per errore, però io avevo fatto questo brano e mi sarebbe piaciuto averci una voce femminile. Ilenia praticamente la conoscevo solo attraverso internet e ho provato così a lanciarle il sasso e lei l'ha preso al volo. Bene. Anzi, più che al volo, cioè, nel senso, si è innamorata del brano, è partita, è venuta a Treviso, abbiamo registrato. È stato assieme, eccetera. E poi tu hai aperto la presentazione del suo disco, esatto, a Roma. Sì, siamo andati giù al Circolo degli Artisti e che lei presentava il suo disco, quindi... Lei è una rockettara, mi dicevi. Sì, lei è proprio rock 100%. Mentre tu il rock lo sposi qualche volta, lo sposi... I tuoi trascorsi musicali sono anche legati al rock. Ce l'hai sempre nel sangue, non certo. Te lo togli fuori. Quindi, quindi è stata una bella cosa, un bel esperimento che potrebbe continuare, si potrebbe allargare. Vorrei chiamarlo un bel incipit, nel senso che poi lei appunto è venuta a Treviso in occasione della presentazione di Visione Cosmetica. E quando appunto ci vediamo, tutte le volte nascono mille idee, quindi ne abbiamo buttate un po' sopra il tavolo e chissà, insomma, che da cosa nasca cosa. Certo, insomma. Quindi divisione cosmetica, nel senso sì, divisione non sul punto di vista estetico, divisione cosmetica, divisione del cosmo, quindi divisione di altre cose che potresti sviluppare, e questa cosa è un'altra esatto. cosa che hai sviluppato, esatto. chiaramente. Benissimo, 23:50, facciamo un tempo di fare sentire un altro pezzo dal vivo, quello sì. Ah, quello sì. Che cosa? Chiudiamo... No, chiudiamo. Sentiamo un altro pezzo, dopo chiudiamo con un altro pezzo. Ah no, ma dico col pezzo dal vivo. Ah certo. Esatto, se lo lasci parlare. Ah sì. Ti spiega, no, perché pensavo volesse chiudere totalmente. Vabbè, no, non ho ancora i controlli delle vostre manopole di lì, ma magari potrei col tempo arrivarci. No, con Tutti Uguali, che è il penultimo brano del disco. Che io ho scelto come... pezzo di lancio del disco, a me è piaciuto molto e quindi per un mese consecutivo andrà in onda, va in onda su queste frequenze. Ok, ne sono onorato, magari un domani potrebbe nascere qualcosa anche da quel pezzo lì, ma adesso non posso rivelare tutto. Quindi. Ah, benissimo. Okay. In un'altra seratina qui da noi. Esatto. Rockway, l'onda del rock. Che è un'azione triste nel gettare troppe occhiate fuori dalle finestre. Vedere questa gente che scambia ideali, no che non siamo tutti uguali. Domenica è un'azione triste nel guardare le vetrine gonfie di sogni e promesse come messaggi subliminali. Noi non siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. Domenica l'angoscia cresce nel vedere le famiglie dentro il centro commerciale. Vendimi l'anima, chiedi quanto ti vale. Domenica è un'azione triste nel vederci tutti in riga nella televisione. Noi siamo un popolo, una nazione. noi non siamo tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. No, che non siamo tutti uguali. Ma noi non siamo tutti uguali. Siamo uomini non pari, connettori senza cavi. Noi non siamo tutti uguali. Come messaggi subliminali. Tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. Come messaggi subliminali. Noi non siamo tutti uguali. Come messaggi subliminali. Noi siamo tutti uguali. Come messaggi subliminali. No, che non siamo tutti uguali. No, che non siamo tutti uguali. Onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo che a me è piaciuto moltissimo. Abbiamo deciso io e Alberto di metterlo su e quindi farlo sentire per un mese consecutivo. Qui l'hai dato, hai dato una versione pop molto dura. Questo è un pezzo pop, secondo me. E sì. lei proprio attaccato, nel senso, anche dal punto di vista vocale, dandolo in una versione decisamente dura. Cioè meno addolcita che non nel disco. Il disco è più addolcita, secondo me, leggermente più addolcita, leggermente. Esatto. Qua invece l'hai proprio caricato, come si, perché è una visione della domenica, praticamente, questa, una visione ironica, sì, esatto, della domenica, del far di domenica, cioè di quel tempo che si perde inutilmente, della noia, della domenica, noia, della veramente noia, noiosa la domenica. Esattamente. Mamma mia. Cioè dipende come la gestisci, può essere una cosa completamente noiosa, però oppure senti che è domenica, secondo me. Sì, domenica è sempre domenica, sì. E fin lì non ci piove. Che in teoria dovrebbe essere il giorno più bello della settimana, sì. È che siamo portati tutti a svilirlo. Sì, perché vogliamo fare tantissime però cose. Però senza la domenica non esisterebbe la magia del sabato, e il riposo e via dicendo. No? Esatto. Mamma mia. Quindi ringraziamo la domenica. Ecco, esatto. Madonna non finisce mai, cantava. Cantava Venditti. Mm. È vero, è vero. Come mai l'hai inserito quasi alla fine del disco, Davide, questo pezzo? Non è proprio la fine, però è quasi alla fine. Sì, sì, è il penultimo. È il penultimo, sì. Perché nel, secondo me, nell'insieme delle cose. Nell'insieme di tutte le cose, non volevo un disco che chiudesse, non dico moscio, sì, però mettiamola moscio. Volevo, cioè, comunque ci fosse una carica e comunque un messaggio relativamente importante, o comunque di non chiudere in discesa. quindi la discesa c'è dopo nel disco ed è una discesa voluta ed è pesante. Sì, molto pesante, alla fine è decisamente pesante, quasi sperimentale possiamo sì, dire. Sì, sì, quella volutamente stata, sperimentale, volutamente. Dai tutto il meglio di te stesso. Sì, là mi sono divertito tantissimo a fare quel pezzo lì, che è il classico pezzo da 7 minuti, esattamente, che è duro da ascoltare. Un mantra ipnotico, potremmo chiamarlo così, decisamente. Infatti. Corre via, dal vivo lo fai sicuramente abbastanza duro, nel senso proprio quello di chiusura. Sì, di chiusura. No, proprio l'ultimo pezzo non lo fai. Solitamente non lo faccio. Ah, perfetto. Pensavo che fosse... No, l'abbiamo fatto una volta sola, perché secondo me quel brano lì, cioè... È un depistaggio rispetto agli altri o no? No, non è un depistaggio. No, non è per niente un depistaggio, però quel brano lì di chiusura è un brano che ci sta in alcune situazioni, quindi ho capito. Non posso neanche rivelare quando va fatto e quando no, insomma, mettiamolo così. Bene. Tutti uguali, di solito spesso è comunque il pezzo di chiusura, perché c'è anche un rapporto diverso che con il pubblico ed è comunque essere appunto tutti uguali in quel pezzo lì. Benché non siamo tutti uguali. Certamente, il testo è molto importante, anche dal punto di vista c'è una visione melodica tutto sommato nel pezzo. Possiamo dire questo? Dai, possiamo dire che è un pezzo simil pop. Ecco, simil pop, ci è concesso. 23 ci guardano quasi 24. Il tempo ci corre via di mano. Se abbiamo finito questa bella cavalcata di musica non prettamente elettronica, Sergio, una musica sua. Sì. Che al di là dell'elettronica è solo un gioco, solo il sistema, è solo il motivo e poi sperimenti. Per veicolare i testi suoi, sì. Io vi ringrazio tantissimo comunque per questa bella serata, per questa ora e mezza che c'è proprio volata via. Dovresti ricordare la casa discografica, il titolo. La sfruttiamo. E il disco si chiama Visione Cosmetica ed è distribuito appunto tramite Garage Records e Audioglobe. Si può trovare sia nei negozi di dischi sia appunto cercando nel sito web dell'etichetta, che è garagerecords.it, e sui vari iTunes e oppure, di portali, eventualmente davidevettori.it, penso che hai tutti i collegamenti. Sì. Esatto, o chiaramente i concerti. Ecco, i tuoi concerti, ti ricordi qualche data? Esatto. Il più vicino è sabato questo, che è il 16, al Bianconiglio Vittorio Veneto con La Congiura, che sarà un bel set, perché anche lì loro sono semi elettronici, ci giocheremo delle cose video, quindi secondo me... Bel connubio. Esatto. E poi il prossimo, oltre a quello di sabato? Quello dopo c'è qualcosa per il 21-22, ma non ve lo riveliamo. C'è una cosa particolare per la chiusura dello spazio MAV il 29 giugno, che anche quella la segnalo, sono le chicchette. Benissimo. Adesso con cosa concludiamo, Davide? Sempre dal vivo, assolutamente dal vivo, perché la caratteristica di Rockway è finire sempre con un pezzo live. Addirittura. Certo, fa parte del nostro DNA, vero Sergio? Allora, se dobbiamo chiudere per il domani, chiuderemo con Progresso e Memoria. Ecco, perfetto, chiudiamo con Progresso e Memoria. Benissimo, io grazie a Sergio Bortolami che ha dato un contributo fondamentale al programma. Su via. Domani avremo Fabio Bilato con il trio Radio Marelli che fanno swing. Carino, bello. Interessante. Okay. Ciao Maurizio, grazie, ciao a tutti gli ascoltatori, alla prossima. Buonanotte. Rockway, onda del rock. Allo specchio quel che ero e non son più. e non c'è luce da guardare fuori nel fare della sera. E non ricordo quando ho smesso di sognare. Oggi è già ieri, ma non è uguale a domani. E se resto fermo, mi congelo le mani. Cade la voglia e sale il nodo alla gola. E in un modo o nell'altro c'è da darsi da fare. E non mi importa di guardare indietro, fissare quel che c'era. Domani troverò qualcosa da sognare ancora. E spalancherò tutte le porte alla luce della sera. Domani troverò qualcosa da sognare ancora. Perduto, chi si ferma, rotola indietro, chi si ferma, è fermo e basta. E non mi importa di guardare indietro, fissare quel che c'era. Domani troverò qualcosa da sognare ancora. E spalancherò tutte le porte alla luce quella vera. Domani troverò qualcosa da sognare ancora. Di guardare indietro, fissare quel che c'era. Domani troverò qualcosa da sognare ancora. Qualcosa da sognare ancora.